Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Sono un dipendente pubblico. Sono sempre stato gentile con gli utenti, anche senza che ci fosse una legge ad impormelo, perché mi sono sempre sentito un servitore dello Stato e depositario di un ruolo importante per la comunità civile. Mi dispiace di sentirmi continuamente denigrato dal mio datore di lavoro. I problemi ci sono. Si affrontino, ma si smette di trattare come criminali tutti i dipendenti pubblici per il solo fatto di essere tali. Personalmente, ma penso di non essere il solo, mi sento motivato e gratificato non solo dalla prospettiva di guadagnare qualche euro in più, ma soprattutto dal sentire la fiducia dei miei superiori e degli utenti del mio servizio. Paolo. La battaglia per l'obbligo di gentilezza negli uffici pubblici non è un'idea balzana. La scortesia degli impiegati frontline è un problema grave che a volte raggiunge il vero sopruso. Qui a Milano va meglio che da altre parti, ma nel sud dove sono nato e cresciuto, la cafoneria è la regola e spesso sconfina in veri maltrattamenti e vessazioni, a danno soprattutto dei soggetti più indifesi come anziani, giovanissimi e, tanto per cambiare, donne. Ricorderò fino a che campo questa tipica frase che mi sono sentito rivolgere da un dipendente pubblico. E secondo lei, con la miseria che mi danno al mese dovrei anche essere gentile? Confesso che questa non l'ho mai capita. Non vedo che c'entri la retribuzione con le cafonerie elargite a larghe mani ai poveracci che si trovano dall'altra parte dello sportello. Qualcosa bisognerebbe poterla fare, insomma. Nel privato l'attenzione all'atteggiamento del personale a contatto con il pubblico è curata ormai in varie attività, anche da noi in Italia. Il problema di mettere in pratica l'idea di Brunetta sarebbero le sanzioni, inutile dirlo. Provare la scortesia, ma soprattutto multare o sanzionare in un qualsiasi modo un dipendente scortese, in Italia, diventerebbe, credo, impossibile. Immaginatevi il putiferio che i sindacati si affretterebbero a sollevare. Arrigo. Mi chiamo Paolo e sono svizzero. Ho sentito il commento di un giornalista italiano che parlava di moschee e minareti in Svizzera. Fate attenzione, perché l'iniziativa votata domenica scorsa vuole inserire nella Costituzione un articolo per vietare la costruzione solo dei minareti e non delle moschee. Premetto che personalmente trovo piuttosto grave l'inserimento nel libro principale delle leggi svizzere di un articolo che vieti la costruzione di questo elemento architettonico. Anche perché in Svizzera esiste già una legislazione che proteggerebbe il paesaggio da costruzioni troppo invasive e sicuramente non permetterebbe a un muezzin di poter urlare 5 volte al giorno il richiamo alla preghiera. In Svizzera ci sono comunque già 4 minareti. Di fatto la votazione non è ben posta. Il problema semmai è un altro. Io sarei più dell'idea di controllare piuttosto ciò che viene fatto nelle moschee. Il problema è che la religione islamica è molto difficile da catalogare, visto che ogni imam fa un po' quello che vuole, a differenza della religione cattolica, che ha un capo unico e quindi, in teoria, un unico pensiero. Paolo, Lugano. Dalla discussione sul referendum svizzero sui minareti è venuta fuori la questione della reciprocità. Si teme cioè che ci venga reso pan per focaccia dai paesi musulmani. Io credo che sarà così, anche se di fatto è già impossibile costruire chiese in alcuni paesi islamici. È anche vero che molti cristiani vengono perseguitati e uccisi nel mondo. Da che mondo è mondo, la prima causa delle guerre sono le religioni. Ricordiamoci di come si è diffuso il cristianesimo nel mondo, dietro fucili e cannoni, attraverso il colonialismo. Insomma, il cristianesimo è la religione dell'Occidente e per questo è molto odiata, perché, per affermarsi, ha distrutto intere civiltà. Vogliamo ricordarci delle Americhe? Oggi si verifica il fenomeno inverso. L'Islam avanza inesorabilmente da tutte le parti e non si può lottare contro chi si fa uccidere per fede. Piaccia o non piaccia, alla fine vinceranno loro. È già successo. Il meraviglioso impero romano cadde sotto la pressione dei barbari. Certo, in questo probabile scenario molti dei valori dell'Occidente rimarranno, ma sono sicuro il mondo del futuro sarà islamico. Franco, Pisa. Ai cristiani che vogliono il crocefisso nelle aule scolastiche, sulla bandiera, e l'hanno magari sul petto, in casa, in macchina e dappertutto. Ai cristiani contenti che i disperati provenienti dall'Africa siano respinti. Ai cristiani felici di non vedere l'immigrato al semaforo, di vedersi meno stranieri intorno. A questi cristiani vorrei ricordare un passo del Vangelo, affinché comprendano la differenza tra il crocifisso con la C minuscola e quello con la C maiuscola, giacché ci si può schierare a favore del primo ed essere in netto contrasto col secondo. Ecco le parole. «Andate via da me, o maledetti, poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, ero pellegrino e non mi ospitaste». Allora risponderanno dicendo: «Signore, quando ti vedemmo avere fame o sete, essere pellegrino e non ti abbiamo servito?» Allora risponderà loro dicendo: «In verità vi dico, ciò che non avete fatto a uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». Ed è bene ricordare che maledetto è anche colui che approva, che dà il proprio consenso ai maledetti che non solo negano ospitalità al pellegrino, ma lo cacciano in malo modo. Attilio, Genova. Cara Radio 24, gentile direttore, c'è qualcuno che mi può dare un pizzicotto? Sì, ha capito bene. Voglio fortemente svegliarmi da questo lunghissimo e assurdo incubo chiamato Italia. Perché di incubo si tratta. O forse no. Come si possono altrimenti spiegare con lucidità e coerenza le assurde contraddittorie dichiarazioni che spesso e volentieri sento uscire da quelle bocche velenose dei nostri cari politici? Senza alcuna distinzione di parte, sia chiaro. L'ultima, ma solo fino alla prossima, è la teoria che, visto l'esito dei referendum sui minareti della Svizzera, e ribadisco Svizzera, l'esito di tali consultazioni popolari va tenuto in considerazione e che probabilmente su certi temi è meglio bypassare il volere popolare, pena una rischiosa deriva populista. Ma grazie. Davvero molte grazie per la considerazione che avete della gente. Ma non fate prima fare una bella legge che stabilisca che un referendum è valido solo se vi dà ragione? Ma questi non sono gli stessi che applaudivano alla grande maturità del popolo italiano quando nel giugno del 2006 bocciarono la devolution. Allora vi andava benone il volere popolare, eh? C'è troppa gente in questo paese che interpreta e piega a proprio piacere o interesse fatti che dovrebbero essere letti con distacco, imparzialità e rispetto. E non sono nemmeno fattacci nostri. E ora, qualcuno mi svegli, please. Marzio. Caro direttore, all'indomani dei risultati del referendum svizzero, immediatamente il mondo musulmano ha minacciato rappresaglie contro la Svizzera, così come accade per le vignette danesi o il discorso di Ratisbona, senza contare le minacce di morte ai vari Rushdie o Magdi Allam, e così via. Io credo che queste reazioni dovrebbero farci riflettere. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una notevole immigrazione di etnie islamiche, alle quali sembra siamo noi a doverci integrare e non il contrario. E se accade che la nostra cultura cristiana osi solo commentare qualcuna delle manifestazioni tipiche di questa fede, immediatamente partono reazioni spesso violente e quasi sempre fomentate da cellule integraliste per le quali è molto facile sobillare le masse islamiche. Per contro, la comunità cristiana è incapace di reagire quando le loro minoranze nei paesi musulmani vengono addirittura trucidate, come avviene in India e in Pakistan. Dovremo convivere quindi con una crescente comunità che vuole imporsi con la minaccia della violenza? Maurizio. Caro Maurizio, il voto del popolo svizzero sui minareti ha giustamente suscitato da una parte sorpresa, da un'altra preoccupazione. Sorpresa, perché è forse la prima volta che in una votazione popolare viene affrontato un tema così complesso come quello della presenza dei simboli religiosi. Preoccupazione, perché questo voto sembra una battuta d'arresto in quel processo di apertura multietnica e multireligiosa che l'Europa ha avviato con l'arrivo di centinaia di migliaia di immigrati, molti dei quali dai paesi arabi o comunque musulmani. Si tratta, tuttavia, di un voto che costituisce anche un richiamo alla realtà. E la realtà è fatta di rapporti molto spesso difficili tra le religioni. In Svizzera, così come in Europa, non è tuttavia in discussione la libertà religiosa, la possibilità di pregare insieme e di costruire per questo luoghi di culto. Si è un posto limite alla visibilità pubblica di simboli estranei alla tradizione e alla cultura locali. Si può leggere come una volontà di difesa e anche come un modo per accettare il dialogo senza rinunciare alle proprie idee. Ma la Svizzera ha una tale tradizione di tolleranza e di libertà che sarebbe sbagliato considerare questo come un primo passo verso ulteriori limiti e restrizioni. Come un richiamo, sì, Un richiamo a non dimenticare che per dialogare bisogna essere in due. Così come a non dimenticare le persecuzioni dei cristiani in alcuni paesi, come lei, caro Maurizio, ha ricordato. Certo, con le ritorsioni non si va da nessuna parte e si aggravano i problemi. Ma ancora peggio è far finta di nulla. Nel momento in cui le persone decideranno di vivere per lasciare ai posteri una società migliore e non solo per conquistare potere, allora i sistemi governati da queste persone diventeranno centri di innovazione e ricerca, pronti ad accogliere menti fresche provenienti dall'università. Io gestisco le vendite in un'azienda di system integrator, audio, video, domotica, eccetera, e posso garantire che è l'amore per un mondo migliore che mi permette di lavorare bene e di ricercare continuamente ottimi prodotti da proporre e ottime persone con le quali lavorare e ricercare. Stefano. Ho letto della proposta del ministro Brunetta di mettere i compensi dei conduttori nei titoli di coda dei programmi RAI. Sì, e quando lo abbiamo saputo che dovremmo fare? Non capisco il senso di questa trasparenza. Francesco. Ma perché non fare ogni mese sulla RAI una trasmissione di 5-10 minuti con la pubblicazione degli stipendi e compensi vari di politici, ministri, sottosegretari, consiglieri, portaborse e quant'altro? Anche questa sarebbe trasparenza. Federico. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.